Pronto? Pronto? Mi senti bene? Sì. Allora, eravamo rimasti questa mattina a Riano con una certa situazione, sì, che forse è cambiata. Dici tutto. Guarda, io a me sinceramente viene da piangere in questo momento. Siamo disperati perché comunque ci hanno preso in giro, le autorità pubbliche ci hanno preso in giro. Stamattina siamo riusciti ad avere un accordo con una delegazione del commissario, che lunedì mattina avremmo avuto un colloquio con il commissario Pecoraro, quindi sì, fino a lunedì non sarebbero andati avanti con l'esproprio. Pomeriggio, allora, quando le persone sono andate via, quindi a tradimento, e lo dico proprio con la voce grossa, i tecnici della regione sono entrati in cava con i tecnici del comune solo per vedere. A quel punto, al limite della proprietà, hanno detto: visto che stiamo adesso nella cava, noi facciamo il verbale di esproprio. Questo è il primo pomeriggio, eh? Questo è successo un'ora fa. Un'ora fa. Un'ora fa, un'ora e mezza fa. Quindi è una cosa vergognosa, è una cosa che non dovrebbe succedere. Cioè, la parola di un funzionario davanti a 1000 cittadini stamattina, davanti comunque a parlamentari, a consiglieri regionali, non è servito a nulla. Noi denunciamo questa cosa e noi chiediamo che chiunque ci ascolti venga qui per far valere la legalità, perché noi non vogliamo altro che la legalità debba essere rispettata. E quindi adesso com'è la situazione in termini... La situazione adesso qual è? Che c'è il cordone, sì, di polizia, ecco, ovviamente, certo, che prima stava sul pian dell'Olmo, adesso è entrato di più nella cava, ovviamente non fanno passare nessuno. E i tecnici quindi, dentro? Certo, certo. Si sono barricati la polizia nella cava con i tecnici regionali. E voi fuori intorno, diciamo? Noi siamo fuori intorno, stiamo aspettando ovviamente che arrivi persone, esatto, che tutti quanti erano andati a casa dicendo va bene, è tutto rimandato a lunedì. Quindi noi chiediamo a chiunque sia in ascolto di Riano, Morlupo, Castelnuovo, Roma, perché qui non c'è confine né, certo, per la salute né per legalità, di venire qui a Quadro Alto sulla via Tiberina, e che comunque ci devono essere vicini, perché la lotta che noi facciamo a Riano non è di Riano ma è di tutti. Sì, sulla Tiberina Quadro Alto è abbastanza visibile da guarda Tiberina. Tanto ci sta sulla Tiberina, a parte le signorine che fanno il loro mestiere, ci sono anche le camionette della polizia. Ho capito, va bene, quindi noi amplificheremo il tutto. Va bene? Il chilometro 7500. Della vi Tiberina, chiediamo, sì, una cortesia, sì, state con noi, non, certo, ci lasciate soli, perché quello che noi facciamo, ripeto, è per il bene di tutti. Naturalmente, certo, certo. Vabbè, ti ringraziamo e tu chiama. Grazie ovviamente in qualsiasi momento. Grazie. Qui radio c'è sempre gente. Grazie, grazie molte. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.